Letture di Radio 24. Fannulloni spagnoli peggio di quelli italiani. In Spagna adesso i deputati lavoreranno un solo giorno alla settimana. C'è chi è disperato perché non lavora e chi non vede l'ora di smettere di lavorare. Da una parte i disoccupati, dall'altra i privilegiati. Ed è contro questi ultimi, i membri del Congresso dei Deputati, che in Spagna rischia di esplodere una sollevazione popolare. Tutto nasce dalla decisione annunciata dal presidente del Congresso dei Deputati, il socialista José Bono, di ridurre il lavoro in plenaria dei parlamentari da 3 a 2 mezze giornate alla settimana, che equivalgono praticamente ad una sola giornata di lavoro. L'annuncio ha suscitato un mare di polemiche, in un momento in cui nel paese c'è un esercito di quasi 5 milioni di disoccupati, il 21,5%, e mentre nelle piazze sono ancora accampati i giovani indignados, che protestano fra l'altro contro la corruzione dei politici. I tempi di lavoro dei deputati spagnoli sono già fra i più ridotti. In Italia, ad esempio, i loro colleghi, non indicati esattamente come campioni di stacanovismo, si riuniscono di solito in seduta ordinaria dal martedì mattina al giovedì pomeriggio. Con la riforma introdotta in forma sperimentale da Bono, gli onorevoli spagnoli lavoreranno in plenaria a Madrid il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina, e non più, anche il giovedì. Chi non sarà trattenuto da lavori di commissione, ha calcolato il sito di informazione Quarto Poder, lavorerà a Madrid 12 ore settimanali, 3 settimane al mese. Le loro signorie risparmieranno una giornata e una notte di vitto e alloggio senza che venga ridotta la diaria esentasse di 1.874 euro mensili. Potranno dedicarsi ad altre attività e alla lunga campagna di riconquista del voto. Perché di questo si tratta, chiarisce Quarto Poder. Le prossime politiche sono alle porte, in teoria in marzo, se non saranno anticipate come si ipotizza a fine anno. Il quotidiano La Razón ricorda che i deputati spagnoli hanno già circa 3 mesi di vacanze estive e 2 a Natale. E circa la maniera in cui Bono ha annunciato la riforma, negli ultimi minuti della sessione di questa settimana, quando in aula rimanevano solo 30 dei 350 deputati. In rete scorre l'indignazione del popolo di Internet. Le loro signorie daranno il denaro corrispondente a questa giornata di non lavoro, per esempio alla sanità? Ironizza ex socialista su El País Online. Che vergogna di rappresentanti, tuona dico io. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Spagna Record, deputati in aula un giorno su 7, da Il Giornale del 10 giugno. Letture di Radio 24. Negli Stati Uniti la possibilità di accedere alle università più esclusive passa attraverso una serie di selezioni sempre più rigorose. E per entrare nelle elite dei piccoli geni, i bambini vengono addestrati già a partire dai 2 anni. Edze Schupfer studia da 1 anno per raggiungere l'obiettivo. Deve piazzarsi oltre il 97esimo percentile, ovvero nel minuscolo 3% al vertice della piramide. Il top degli allievi superdotati a cui si spalancano le porte degli istituti più elitari. Quando Edze si mette al suo mini tavolo da lavoro, per quanto questo sia su misura, le sue scarpine non arrivano a sfiorare il suolo. Edze non ha ancora compiuto 3 anni. I suoi genitori, newyorkesi, l'hanno iscritta quando ne aveva solo 2 alla Junior Common Preschool Eichmann Program. È una delle scuole private che in America si rivolgono a un nuovo mercato, l'addestramento dei bambini prima della scuola materna. È un boom competitivo che conquista le prime pagine del New York Times e del Wall Street Journal. Genera supplementi speciali su giornali e magazine per impartire consigli ai genitori. Lo scopo è trasformare i figli in piccoli Einstein, che riescano a qualificarsi nelle prove per gli asili nido riservati ai superdotati. Da lì potranno spiccare il volo verso le migliori scuole private e in seguito sarà più facile puntare ad Harvard, Stanford, le grandi università di elite. La carriera di un genio si programma appena il pupo muove i primi passi. Per cominciare a studiare con noi, basta che si siano tolti il pannolino, spiega Joseph Nativo, direttore finanziario della filiale Camon per gli Stati Uniti. Questa catena di istituti privati specializzati nelle ripetizioni scolastiche ha 250.000 iscritti in America ed è la sua sezione junior per i bambini in età pre-asilo quella che cresce più velocemente, al ritmo del 30% in più ogni anno. Solo a New York ci sono 36 filiali e 14 nuove apriranno quest'anno. Si inaugurano più Camon che caffè Starbucks. Il programma minimo, 2 sedute settimanali di allenamento alla scrittura e all'aritmetica, a cui va aggiunta almeno mezz'ora al giorno di compiti a casa, sotto supervisione di un adulto, familiare o tata diplomata. Molti genitori, dopo questo esordio, chiedono di più. In palio c'è la possibilità che bambine e bambini vincano il concorso di iscrizione alla Anderson School nell'Upper West Side di Manhattan o riescano a entrare alla Tag Young Scholars nell'Upper East, due degli istituti che accettano solo piccoli geni. 90 moltiplicazioni in 6 minuti è un buon parametro per misurare quel che un bambino deve essere in grado di fare prima di aver compiuto il 6° anno, l'età teorica dove ha inizio la scuola dell'obbligo. Aspettare i 6 anni a trastullarsi con giochi sarebbe una follia. Né bastano le soluzioni tradizionali, come ingaggiare una ragazza alla pari che insegna una lingua straniera ai figli appena svezzati. Così almeno la pensano quei genitori ipercompetitivi che in massa si precipitano a iscrivere i figli alle prove di ammissione per i Gifted Programs, programmi per bambini superdotati. Ne sa qualcosa Emily Glickman, la presidente dell'Abacus Guide Educational Consulting, che assiste i genitori nel percorso a ostacoli verso le superscuole. Negli ultimi 2 anni, dice la Glickman, c'è stata un'escalation spettacolare, sia nella quantità di lavoro necessaria per assicurarsi l'accesso a una scuola materna di elite, sia nella durezza della competizione e nell'incertezza dell'esito. Sempre più numerosi, sempre più preparati, sono i bambini in gara per quei pochi e ambiti posti. Tra gli esperti in pedagogia abbondano gli avversari di questa nuova ossessione. Nel migliore dei casi, questi sforzi sono del tutto inutili, scrive sul Wall Street Journal lo psicologo Alison Gopnik, docente dell'Università di Berkeley, ma si possono anche fare dei danni. L'eccesso di competitività mi fa pensare all'alce irlandese, i cui esemplari maschi si misurano fra loro in base alla stazza delle corna. Il risultato è che queste bestie barcollano sotto il peso di corna giganti, ipertrofizzate e inutili. Credo si possa dire la stessa cosa di tanti genitori americani con bambini dal preasilo in su. Eppure i pareri contrari non fanno desistere genitori come Gina Goldman, convinta che l'aver iscritto suo figlio al corso Camon prima dei 5 anni sia nel suo interesse, perché non parta sfavorito verso gli altri, perché così funziona la vita reale. E poi, questi corsi danno un formidabile sostegno all'autostima. Nella borghesia medio-alta, si scopre, le mamme tigri abbondano, decise a investire ogni risorsa finanziaria e psichica per lanciare la prole verso traguardi elevati. Questi bambini dell'America benestante sono sottoposti a una pressione micidiale. All'addestramento di matematica e calligrafia si aggiungono dalla più tenera età i corsi di nuoto, pianoforte, arti marziali, almeno una lingua straniera, mandarino e tedesco, le più gettonate. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federico Rampini, Il boom dei piccoli geni nelle superscuole a 2 anni, da Repubblica del 14 giugno.